La valutazione, da quello che si legge sulla proposta del Movimento 5 Stelle, è a mio avviso pessima, nel senso che è una proposta che non risolve il problema dei salari in Italia, che sono salari per troppo tempo ancora troppo bassi. È una proposta che non risolve la questione dirimente dei salari italiani, e cioè che i livelli medi e mediani dei salari sono appiattiti sui minimi orari. Voglio dire che c'è una quota, circa il 50% della forza lavoro, che riceve dei salari che sono praticamente simili ai salari minimi orari, quindi il tema dei salari non andrebbe affrontato come vuole 5 Stelle, cioè introducendo peraltro un salario orario di 9 euro lordi, che è addirittura inferiore rispetto ai minimi contrattuali definiti dai contratti collettivi. Quindi è addirittura, con una misura del genere si riduce ulteriormente i livelli minimi salariali in Italia, cioè appiattendo verso il basso i minimi, senza risolvere invece la questione centrale, il fatto cioè che buona parte della forza lavoro italiana guadagna dei salari troppo bassi mediamente. Quindi è una, a mio avviso, una proposta assolutamente insufficiente per rispondere al grande problema salariale, che è un po' la questione politica generale. E allora a questo punto però ti chiedo anche che misure bisognerebbe prendere per, come dire, garantire una paga decente a quelle tante fasce di precari che in realtà a quei 9 euro lordi manco ci arrivano. A mio avviso bisognerebbe fare due cose: estendere i minimi contrattuali, quelli definiti dal contratto collettivo nazionale, alle categorie di lavoratori che oggi non guadagnano le cifre definite ai minimi contrattuali. Noi sappiamo che i contratti collettivi hanno una copertura dell'80-85%, quindi c'è una fascia di lavoratori che guadagna meno rispetto al minimo orario definito dai contratti collettivi. Quindi estendere i contratti collettivi ai lavoratori che non godono dei minimi orari definiti dai contratti collettivi, in modo tale da difendere, diciamo, tutti i lavoratori. E in secondo luogo, che è a mio avviso, diciamo, la proposta di riforma necessaria all'istituto salariale, è introdurre un principio, quello del pari lavoro pari salario. Noi in Italia vediamo operai che lavorano in settori diversi guadagnare salari diversi. Faccio un esempio: lavoratori della logistica, che sono operai a tutti gli effetti e guadagnano molto meno rispetto a un operaio metalmeccanico. La stessa cosa riguarda i tanti operatori oggi distribuiti nei servizi a bassa qualificazione. Ci sono operai che svolgono la stessa mansione di un operaio magari inquadrato nell'industria, ma guadagna un salario nettamente inferiore. Quindi produrre e avanzare una riforma che dica il principio per cui lo stesso lavoro deve richiedere lo stesso salario, quindi a parità di lavoro, parità di salario. Una volta eletto segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, il Movimento 5 Stelle, in particolare Luigi Di Maio, ha provato, come dire, non so se era una provocazione o un tentativo di creare un asse sul tema del salario minimo orario. È una questione politica o anche tecnica? Perché appunto il PD dice: noi abbiamo la nostra proposta che è diversa. Sì, no, lì è un tentativo politico di Di Maio, cioè quello di accreditarsi sul tema salariale, quello di scavalcare il Partito Democratico e condizionarlo a misurarsi con la proposta del Movimento 5 Stelle. Il problema è che sia la proposta dei 5 Stelle sia quella del Partito Democratico sul tema salariale sono due proposte insufficienti, perché il Partito Democratico nella proposta sul salario minimo orario introduce un livello minimo solamente per quei lavoratori che non hanno la contrattazione collettiva e che non possono godere quindi dei minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, senza risolvere quindi l'annosa questione del lavoro povero, perché oggi esistono contratti collettivi con minimi orari bassi, per il discorso che dicevo prima sulla parità di lavoro, parità di salario, che oggi non è affatto così. E dall'altra parte quella dei 5 Stelle, come si diceva prima, è assolutamente insufficiente. Quindi c'è un gioco politico di queste due forze per provare a, diciamo, accreditarsi sul tema salariale, spingere, diciamo, in termini di egemonia sulla questione. Io credo che però siano tentativi tutti politicisti che non affrontano la radice della questione, che è una questione invece seria e che andrebbe affrontata in maniera molto diversa rispetto a come viene presentata da entrambi i partiti.